Welcome to the Magic Show presents www.intermodulator.com. Good listening. Buon ascolto a tutti e bentrovati da parte del Mangia, ennesimo episodio della trasmissione The Mangia Show in onda su questa radio. In apertura spieghiamo ancora un pochino il tutto ai nuovi amici e alle nuove amiche. Allora, il Mangia Show è una striscia quotidiana on air su questa emittente radiofonica, dove all'interno di essa c'è la possibilità di ascoltare grandi successi musicali, ma non la musica consona che magari ascoltate nelle radio commerciali in FM, ma musica definita Creative Commons, quindi musica che a differenza delle canzoni consone che ascoltate non è tutelata dalla SIAE eccetera eccetera, ma bensì dalle licenze Creative Commons, che permettono per l'appunto l'ascolto, in certi casi anche il download free dei brani e la condivisione tramite diciamo così onde radio e anche tramite il web. Io sono il Mangia, se volete magari approfondire la conoscenza su di me c'è un sito www.andreamangiarotti.com. All'interno di questo sito ci sono tutti i vari link per entrare in connessione con me o tramite social network oppure semplicemente tramite indirizzo mail. Piano piano ci stiamo avvicinando alla primavera, come potete vedere. Le giornate diventano sempre più belle e insomma iniziamo a svestirci, come si suol dire. In apertura, prima di congedarmi, insomma vorrei ricordare anch'io, come che avranno fatto tutti i media eccetera eccetera in queste settimane, il grande cantautore bolognese Lucio Dalla, che ci ha lasciato prematuramente in questo mese, insomma il mese scorso, e ci tenevo anch'io in apertura insomma citarlo, ricordarlo attraverso le sue fantastiche canzoni che da tantissimi anni sono solito ascoltare nelle mie diciamo così notti insonne, magari in macchina mentre sono in giro con gli amici. C'è sempre in sottofondo un CD del grande Lucio Dalla. Grazie Lucio, non è un addio ma bensì un arrivederci, un ciao, grazie ancora. E ora possiamo partire con la prima canzone, che è del caro amico Graziano Manca, Al secolo Dark Light, ci regala questa traccia, sempre ovviamente estratta dal suo nuovo album. Il titolo è The Sadness of Pen, lui è Dark Light. We'll be right back. questo è sempre il Mangia Show, in sottofondo la grande musica di Dark Light che vi ricordo potete ascoltare e anche scaricare sul sito www.yamendo.com. Voi cercate, scrivete nel motore di ricerca Dark Light e vi compaiono le compilation, gli album prodotti da questo grande artista piacentino. Noi lo suoniamo sempre come prima traccia, traccia d'apertura, perché Dark Light è principalmente un caro amico. Un saluto quindi a Graziano Manca, H Dark Light. Ora parliamo invece di moda. È tornato di moda il turismo in cantina. Pensate un po', recentemente avevo letto un articolo dove gli inglesi apprezzavano molto, insomma, i colli dell'Oltrepò Pavese. Ma non è solo il popolo inglese che apprezza l'Italia, ma un po' tutti gli italiani, diciamo così, adorano fare il cosiddetto turismo in cantina. Un articolo reperito da l'ANSA.it, sempre ovviamente la versione online. Questo articolo dice per l'appunto: è di moda il turismo in cantina. Lo leggiamo velocemente. È italiano, di età tra i 30 e i 50 anni, internauta, pianifica le proprie vacanze autonomicamente sul web, viaggia in coppia o in gruppo di amici e cerca un'offerta integrata che al vino abbini cultura, sport, natura e benessere, insomma. Ed è per questo che sono nati i cosiddetti agriturismi, dove è possibile pernottare e sorseggiare un buon vinello della casa. È stata condotta sulle cantine di tutta Italia un sondaggio e risulta che l'enoturista, che insomma è sempre più in aumento e adora proprio spendere i propri soldi nelle cantine, magari acquistando un pochino di vino. In questo articolo si dice che per l'appunto la spesa media è di circa 50 euro in cantina, che può arrivare anche a 100 euro. Invece il turista straniero, pensate un po', nel 65% dei casi è propenso a spendere più soldi che il turista italiano, il turista enogastronomico ovviamente, stiamo parlando di turismo nelle cantine e anche negli agriturismo. Questa cifra va poi aggiunto i costi per il pernottamento, come abbiamo detto in precedenza, e la spesa media pro capite giornaliera può arrivare sino all'incirca 200 euro per turista. Insomma, in questi ultimi anni si cerca di creare magari un turismo un po' più, passatemi il termine, trendy, che possa abbinare magari, non so, magari le passeggiate in campagna nei vigneti con un buon vinello, che poi se il vinello è dell'Oltrepò Pavese, diciamo così, si può gustare qualcosa di pregiato, eh? Quindi tutti a fare il turismo in cantina. Noi andiamo avanti con la prossima canzone, ricordandovi sempre che siete all'ascolto del Mangia Show. sempre in vostra compagnia il Mangia all'interno del The Mangia Show. Vi ricordo ancora una volta il mio sito internet www.andreamangiarotti.com, se avete voglia magari di interagire con il sottoscritto per comunicarci le vostre impressioni in merito ai vostri argomenti del cuore, fate pure www.andreamangiarotti.com. E ora leggiamo un'altra news reperita sempre da NASA.it. arriva il robot pittore, pensate un po', circa 20 anni fa queste cose erano impensabili. All'apparenza può sembrare una rigida macchina di metallo, lontana dall'estro di un pittore, ma il suo genio artistico emerge appena qualcuno si siede sullo sgabello posto di fronte. Il robot ritrattista, si chiama proprio così, è in grado di realizzare ritratti del vero, realizzato da un gruppo di ricercatori e artisti tedeschi del centro di Karlsruhe, presentato durante la fiera dedicata alla tecnologia dell'informazione e alla comunicazione, che si è tenuta il 6 e 10 marzo a Hannover. Il robot, in funzione presso l'istituto di Fraunhofer per l'elettronica e l'utilizzo delle immagini a Karlsruhe, per progettare gli oggetti come riflettori, si mette in azione, pensate un po', appena una persona si siede di fronte ad esso. Una telecamera registra il modello da ritrattare, il robot tira fuori la matita e si mette all'opera. Dopo circa 10 minuti afferra il lavoro e orgogliosamente lo presenta al suo pubblico. Alla base delle capacità del robot di riuscire a ritrarre un'espressione facciale vi è un processo di valutazione dell'immagine che essenzialmente fornisce al robot il senso della vista, spiega la ricercatrice tedesca che lavora per l'appunto a Karlsruhe. Innanzitutto giunge il robot a una telecamera montata sul braccio che usa prima di realizzare il ritratto. La telecamera registra il modello da ritrattare e un software lo analizza e lo traduce in immagini, in comandi da inviare al robot. Quindi insomma, un'invenzione interessantissima. Qua a questo punto avremo anche i robot che andranno a lavorare, non so, magari al posto nostro. Voi che ne pensate? Se volete insomma comunicare con me, ricordo ancora una volta che questo è Mangia Show e potete visitare il mio sito web www.andreamangiarotti.com. Qualche mese riflettevo tra me e me, insomma la RAI ha lanciato un'offerta multimediale e propone per l'appunto la visione dei suoi canali anche sul web e la stessa cosa fa in qualche orario le 7 e meditavo tra me e me e Mediaset, per adesso non si sa ancora niente, si vede magari un pochino furtivamente qualche programma di Mediaset che magari qualcuno condivide in alcuni siti. E pensate un po', Murdoch lancia Sky Go, la TV su tablet e cellulare. Il magnate per l'appunto australiano, proprietario di Sky TV e anche di Sky TV Italia, scappa dal televisore e prende casa negli schermi dei tablet, degli smartphone, anche degli iPhone e di vari insomma cellulari. E ovvero dimenticare il vecchio PC, una rivoluzione legata alla fruizione dei contenuti che porta la firma di Sky, ma sulla quale anche Mediaset promette battaglia. Questo articolo è reperito per l'appunto da Google News. Il gruppo di Rupert Murdoch rilancia in Italia la strategia della multipiattaforma, mettendo a disposizione dei suoi abbonati in alta definizione la nuova offerta di Sky Go. Un film in parte già visto, ma con alcune variazioni strutturali del portafoglio. Prima che marketing per l'appunto lo scorso agosto, scusate, ma c'è questo programma che questo browser che purtroppo mi mangia le parole, quindi devo cercare di arrivare ad intuito. Per l'appunto parla di Sky che si sta lanciando sul web. E per l'appunto i canali più importanti visibili grazie a Sky Go sono Sky 1, Fox, Disney Channel, Disney Junior, National Geographic, History Channel e ovviamente il calcio. Una strategia innovativa che richiede investimenti non banali. Nel 2012 investiremo 100 milioni di euro in innovazioni, quasi il doppio sull'anno scorso, ha spiegato Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky Italia. E del resto un detentore di iPhone su due in Italia è un abbonato Sky, mentre l'83% dei nostri abbonati ha un PC, spiega per l'appunto l'amministratore delegato. E chi non riesce a cavalcare il cambiamento non può che essere travolto dall'innovazione. Bene, staremo a vedere insomma se Sky offrirà a tutti gli abbonati, anche al sottoscritto, insomma, che non sono per adesso abbonati in versione HD, insomma la visione di alcuni canali anche tramite PC. Ci accontentiamo anche del PC, insomma non ci allarghiamo con tablet eccetera eccetera, ma magari non so, una decina di canali sul proprio PC di Sky, quelli fondamentali diciamo così. Ora continuo la musica con un successo che a me mi fa veramente impazzire, quindi lo ripropongo spesso, lo trovate anche su yamendo.com. lui si chiama DJ Mirko, con questa sua produzione stupenda è The Last Sunset Version Dance. Classic hits to the best of today. In precedenza abbiamo ascoltato Mirko DJ con The Last Sunset, ora siamo tornati in onda con Kay e questa canzone molto bella, Beautiful Way. Siete sempre all'ascolto del Mangia Show in vostra compagnia, il Mangia o Andrea. Vi do ancora una volta le nostre coordinate, se volete interagire con noi www.andreamangianotti.com, questo è il sito ufficiale del Mangia Show, che vi permette per l'appunto di scoprirmi meglio e in maniera più dettagliata. Se magari siete in possesso di Facebook e anche di Twitter, potete aggiungermi o su Facebook o su Twitter. Ed ora una notizia reperita dal Sole 24 Ore: si parla di ecologia, si parla soprattutto di inquinamento. È partito il treno verde di Legambiente che farà tappa in 7 capoluoghi, tra cui Parma, Cremona e Vicenza. in partenza il 3 novembre 2012 di Lega Ambiente Ferrovie dello Stato, la grande campagna di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle città italiane. L'obiettivo è quello di monitorare, informare, sensibilizzare, educare e promuovere le buone pratiche di tantissime città verso la sostenibilità ambientale e la qualità della vita. Giunto alla 23esima edizione, il Treno Verde, realizzato con la partecipazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Turismo e del Mare, grazie anche al contributo di Enel Green Power. Il Treno Verde porterà in giro per lo stivale le ultime tecnologie nel campo della produzione delle energie rinnovabili, settore in cui la società è leader mondiale. Scusate, ma purtroppo il mio browser web mi mangia le parole, però diciamo così me la cavo non male, cerco di capire insomma magari la vocale mancante e riesco a collegare la frase. Vabbè, chiudiamo questa parentesi. Dal 6 marzo al 7 aprile si porterà a termine un completo monitoraggio scientifico per ognuna delle 8 città in cui il convoglio farà tappa: a Genova dal 23 al 27 di marzo, realizzando un'indagine che mette a nudo il problema principale di gran parte delle nostre città, ove l'insostenibilità del trasporto privato su gomma e la necessità di spostare la mobilità su mezzi pubblici e su rotaie. Va bene, speriamo. In Italia si viaggia ancora per circa il 90% su strada, vedete quanti camion che girano. Staremo a vedere se si riuscirà a spostare i trasporti su rotaia e perché no anche magari tramite gli aerei. Va bene, speriamo insomma di al più presto poter avere anche queste innovazioni che hanno in maggior parte dei paesi europei industrializzati come il nostro. Questo è sempre il Mangia Show, ora spazio alla musica. musica si fa un po' più graffiante qua al Mangia Show. Siete sempre in compagnia del Mangia su www.andreamangiarotti.com per ogni vostra considerazione. Per chi è figlio degli anni 80 come sottoscritto, non so se vi ricordate le varie televendite che promettevano dimagrimenti veloci tipo Vanna Marchi, poi negli anni 90 c'era anche sì il Bogumil, insomma questa mistura di erbe proveniente, mi sembra, dall'Ungheria, che offriva agli acquirenti il dimagrimento veloce, così senza mangiare. Va bene, insomma questo era quello che accadeva nella gloriosa TV degli anni 80 e anche degli anni 90. Mi riallaccio per l'appunto a questi miei ricordi, perché il prossimo articolo parla proprio di dimagrire restando in linea senza fare esercizio fisico. Penserete, pazzia? No, resta in linea senza fatica, mangiando volontà e senza far sport. Non è uno spot ingannevole? Pensate un po', alcuni scienziati hanno dimostrato che è un traguardo possibile, diminuendo nel cervello la produzione di una droga naturale, non fraintendete, per l'appunto 2AG. I topolini hanno fatto per l'appunto gli esami, i topolini restano sani e in forma anche se pigri e mangioni. La ricerca del farmacologo Daniele Piomelli dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova con il ricercatore Nicolas Di Patrizio di una università USA hanno stabilito questo, insomma, che se si riesce a diminuire la produzione di questa droga naturale che si chiama per l'appunto endocannabinoide, scusate ma è una parola un po' complessa, si riesce insomma a rimanere snelli senza per forza fare attività fisica. Io però mi ricordo negli anni 80 quando Vanna Marchi insomma prometteva il dimagrimento veloce con delle creme senza fare alcuno sforzo fisico, poi sapete tutti com'è andata. Va bene, basta ciance, le nostre chiacchiere online all'interno del Mangia Show. Ora faccio io una richiesta al mio vecchio e caro amico computer Arturo. Caro computer Arturo, che va per i 12 anni, pensate un po', è lui che ci permette di andare in onda. Vorrei ora io sentire una bella canzone. Mi piacciono molto i Rain, che trovate anche loro su www.yamendo.com, trovate la loro musica in free download. Volevo ascoltare dei Rain una canzone molto bella intitolata Est, estratta da un loro vecchio album molto molto bello. Per voi i Rain e me li gusto anch'io. Vai! Nella storia chi non ama imperatori si rimpasta il vecchio gioco del potere, e mi ricordo di altre bandiere, altri slogan, altre facce, altre idee. Sulle strade che entrano a Praga c'è il trionfo della repressione, sui carri armati dell'armata rossa c'è la maschera di un altro colore, c'è chi maschera un altro colore. Sulla piana che solca l'Ungheria corre il treno di questa mia vita, ma tu mi dici che è già finita e non sai che dolore mi dai. Tu non sai il dolore che mi dai. Tu che mi dici lascia stare, sai che il tempo è un amico infedele. Come vedi tutto cambia e l'amore è fatto solo di poesia. L'amore fatto solo di poesia. Le mani sempre più tese e gli occhi schiusi fin dentro un ideale, e il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze di questo sogno che chiamiamo libertà. Per la gloria dei moderni dittatori scorre il sangue di un popolo sovrano, e tu soldato americano con che pane che stasera mangerai, di che pane che stasera mangerai. Sui tamburi e della propaganda

precedenza il bellissimo singolo di Irene intitolato Est, e ora siamo tornati in onda con questa canzone dal titolo Delirant Planet di Lostana David. Siete sempre all'ascolto del Mangia Show. Vi ricordo che questa musica è tranquillamente disponibile su www.yamendo.com oppure sulle reti P2P sul web, perché trattasi di composizioni musicali tutelate dalla Creative Commons licenza, quindi a seconda dell'uso che l'artista ha scelto di fare della sua musica è possibile scaricarla gratuitamente, non in tutti i casi, però per la maggior parte è possibile scaricarla gratuitamente, diffonderla sul web o semplicemente ascoltarla nel proprio iPhone, nel proprio telefono, nel proprio computer, eccetera, eccetera, eccetera. Ora andiamo avanti con la musica, con questo disco di Ratak 6, bellissimo. Thank you. l'ultima canzone che conclude ufficialmente il Mangia Show, ma voi non disperate, ci ritroveremo prossimamente sempre su questa radio per ascoltare ancora grandi successi di musica Creative Commons e per parlare un po' di svariati argomenti che leggiamo qua e là dal web. In finale vi ricordo tutte le coordinate per essere grandi protagonisti con il nostro show oppure semplicemente per visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com www.andreamangiarotti.com dove è possibile insomma leggere i miei post oppure semplicemente guardare i link che vi portano diretti a Twitter e a Facebook. Siamo giunti al termine di questo programma, quindi non mi rimane altro che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto a tutti. Prima facciamo una cosa, mandiamo il jingle che conclude il programma e poi faremo una cosa, mi auguro, gradita a tutti voi. Mandiamo il jingle, va. Avete ascoltato il Mangia Show. Tutte le informazioni su www.andreamangiarotti.com. Alla prossima puntata. Essendo uno stimatore della musica di Lucio Dalla, non lo dico così, no, com'è che si fa solitamente quando muove qualcuno importante, subito no, si diventa tutti fans, tutti amici, eccetera, eccetera. Io ho sempre seguito Dalla musicalmente e quindi mi piaceva mettere una sua canzone, però non posso farlo perché, come ben sapete, non ci è possibile trasmettere musica coperta dai diritti della SIAE, quindi non lo possiamo fare. Però volevo anch'io leggervi, come ha fatto il suo amico Marco Alemanno, mi sembra si chiami Marco, leggervi per l'appunto il testo della canzone Le rondini. Mi scuso se ci saranno delle imprecisioni, però purtroppo il mio browser Dillo mi mangia un po' le parole, però voglio cercare di leggerlo, spero di leggerlo correttamente. Se c'è qualche errore, scusate, noi qua non siamo a Radio 101, Radio DJ, dove che hanno delle macchine sofisticate, dei computer, eccetera, eccetera, dove che si può leggere tranquillamente. Noi abbiamo qualche difficoltà, ma siamo pur sempre una radio locale, quindi scusateci. Allora, leggiamo questo testo e lo dedichiamo virtualmente alla memoria di questo grande cantautore. Dopo il testo seguirà un minuto di silenzio, non si sentirà niente. Così è il nostro modo per ricordare il grande Lucio Dalla. Leggiamo Le rondini. Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti della città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore del caffè, fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali e con la polvere dei sogni volare e volare al fresco delle stelle e ancora più in là. Sogni. Tu sogni nel mare dei sogni, vorrei girare il cielo come le rondini, e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici, e come loro quando, la sera, chiudere gli occhi con semplicità. Vorrei seguire ogni battito del mio cuore, per capire che cosa succede dentro, e cos'è che lo muove. Da dove viene ogni tanto questo strano dolore, vorrei capire insomma che cos'è l'amore, dov'è che si prende, dov'è che si dà. Ciao Lucio, grazie per tutto quello che ci hai donato attraverso la tua musica. Arrivederci, un abbraccio. what you heard. The Mentor Show. The Mentor Show. In partnership with www.mentorshow.com. Is renewed in the next episode. Thanks for listening.